Sì, il termine non è molto felice perché in realtà è un neologismo e fra l'altro il suono non è granché. Quando parliamo di consumerizzazione, se trovassimo un termine migliore probabilmente lo dovremmo usare. Quando parliamo di consumerizzazione intendiamo dire che quelli che sono gli strumenti, le applicazioni che vengono oggi implementati all'interno delle imprese, quindi per chi lavora in banche, assicurazioni, piuttosto che nella pubblica amministrazione, nel posto di lavoro fondamentalmente, sempre di più è influenzato da quelli che sono gli sviluppi e le iniziative che nascono sul web, quindi che nascono su internet. Mentre prima esisteva una fondamentale distinzione, questo è software che si fa sul web e si fa per noi come consumatori, per noi che vogliamo andare magari a cercarci un'informazione, a prenotare una vacanza o comprare un oggetto, era fondamentalmente diverso da quello che si facevano come applicazioni per noi come persona che lavora in banca o in assicurazione e così via. I due mondi si stanno fondendo e sempre di più quello che avviene nel mondo internet, quello che avviene nel mondo web, che viene definito per noi come consumatori, diventa anche importante, fondamentale componente di quello che viene reso disponibile sul nostro posto di lavoro e quindi in qualche modo crea una sorta di sinergia e anche di omogeneizzazione tra il mondo dell'impresa e il mondo del consumatore. Questo è il fenomeno che abbiamo visto.